sì. Grazie, se vuoi venire siamo in 27. No, sto facendo cosa? A te sto gufo. Ti ho visto su Facebook raccogliere gli asparagi, non ce n'erano, bello bene. Ah, una mangiata, dai, per due, boh, ce n'erano pochi. Poi ormai stanno andando a farsi benedire gli asparagi. Capito mi hai? Ehi, già lo so, ieri mi hanno telefonato, mi li volevano portare. Ma ne ha ancora nel possesso, e tu li ho mangiati anche ieri notte. No, non li vuoi cazzo, ma li ha stufati. Ce n'ho ancora dentro il possesso. No, ma già non mi stufano, va. Comunque c'ho anche a torre. Era 27, però. E mai avranno una stessa. Saranno. Manco io, c'ho tutto devo attaccare, devo pigliare l'alimentatore, il baracchino, no, oramai già fatto, cosa la faccio fare, sto già di 7 mesi, il salario non mi piace. Purtroppo ci dobbiamo abituare. Lo so, infatti io mi sono cominciato da Londra, mi sono cominciato da Rizzi. Ma i ragazzi mi sono occupato e me ne sono visitato a Londra, anzi mi danno città. Vabbè, comunque me li ho già preparati, dai, poi domani aggiungo la panna e mi faccio la pasta. Già sono buoni, non è che non sono buoni, però quando li mangio spesso una cosa, si stufa, mi pare che mi sono rimasto un pochettino in pergamino minore, ma non ne ho mangiato neanche a mezzogiorno. Se ne ha fatto una cassarola a manna, le noci me la giovagnate, gulloso. Però, noi lì, mi hanno già stufato. Beh, ti credo. Vabbè, una cosa non la mangi spesso, però ti stufa. Oggi basta giusta. Pennette, quelle piccoline, buone, quelle per i bambini, quelle della Marisa. E Mariso. Bonareggio, quel suo arrago. Mariso, poi mi ho fatto carciofi impanati, frisci, Bonareggio, favette al prezzemolo, oggi niente carne. No, noi abbiamo, padre di Marina ha fatto la carne arrosto in campagna. Già l'ho visto accendendo il fuoco su questo. Già l'ho visto poco fa. Piace, da rimane a fatto cotolette e fettine di pollo impanate e anche di vita tra maniera, come si dice. Caluppi. Già sono buoni, dai. Già sono buoni, brughissimi. E infatti sono rimasti due, laggiù di giù, dalla Rugani, che laggiù fatti da Rugani, e noi mi piacciono molto. La mangio, dici, ma noi che mattina. La data qui, la manco qui, sarai rubiato. Sul fatta, sera. Non ho capito, grazie, cosa ha detto? Ho detto, l'ho data al cane, ma con qui sarà nel piatto, un chilo di bocca non finirà più. E tu conta, l'ugani che va l'uomo di Maria in campagna, no? Quando ci sono gli avanzi, ha succedato due avanzi, non mastica, eppure, cioè quando gli dai l'osso te lo fa, te lo sbriciola veramente, tipo farina lo fa diventare, farinoso. Però la cosa adesso, il contorno della pancetta, no? Questa cosa così. C'è dura quasi. Dice Roma stesso, vado una gira da riga e pari. La società dura che è senza denti, una 3 o 4 mi fa. Ma io già una volta che ingerisco poi già c'hanno un acido loro, sciolgono tutto. Sì, già rubito, anzi diceva. Noi camminiamo manco più i piedi di la rete, stressato più l'interno. Ascolta bene. E quanti anni va? 15 anni mi sembra. 15 anni, faccio un conto, quanti anni va? ha fatto il calcolo un signore che ce l'ha qui l'altro giorno in casa, 120 anni, ha fatto il calcolo come si calcolano io, gli amici, ha 105 anni. Ogni anno sono scambi. E gli ci ha detto 105. E Manuel, ma se mangia 6. Devi fare 7 per 14 uguale 98. Più un anno del primo anno sono 99 anni. Cioè 99 anni con cane. Vai da figli. Ce l'avevo da, era Manno che c'è il palmo della mano lì, quando me l'hanno dato, perché ce lo stavano buttando. Io mi dono che era Montezza, e tu imparai i fratellini dei fratellini, e io mi ho scelto quello, e là che c'era tutti i rubidoni della Montezza. Invece l'una ha 64 anni, perché il primo anno vale un anno, poi fate il conto, 7. 7 per 9 quanto fa? 63. Se c'ha 15 anni, grazie, al primo anno vale un anno, fai 14 per 7, ma 7 per 14, vabbè, ti dà 90, 98. Ma lì sta pulita, a vita futura, se ne sono cucine me le fanno ricci. Ah sì, se no si brutta il naso. Vabbè, se vuoi va grazie. Purtroppo, è come te noi, quando arriviamo a una certa età, poi iniziamo a prendere i corsi. Purtroppo, cosa vuoi fa? Allora, sono animali, e noi siamo esseri umani, ma comunque non è che cambi molto alla fine, anche loro soffrono come soffriamo noi, sì. Magari arriva all'età di loro, magari, cioè quasi 30 anni, vabbè. Polino, come lei, solo che ci rimane a gullanti infatti, e trinciava scuro in terra, pulire con zappe di danate, non ci fa di vita. Non si immagina. No, reggini l'anche di dare. Grazie a 100 anni ami quasi. Siamo già a Luca che ne ha 40. Inteso è Luca, cosa ti ha detto? Luca. Si muggia la migliora. Non si dirà ormai. Dica come te. Sì, circolo che frequentelli, grazie. Ah, grazie, la frase che come te tu dirà. Ehi, non ti ho sentito Luca, eri troppo basso. Cosa hai detto? Dai che ne frequentelli sul circolo. Ah, Luca o Ciappella, mi da che sei frequentelli nel circolo. Mi dico che i locali degli arcighi che andate tu. Sentito, bella me. Non me l'ha data la risposta, buona la ci ha preso. Vabbè, non ti rispondi, devo seguire a Ruscelli, Luca. Boh, io mi sto verso l'asta, grazie. Così, c'è, dopo me la vado a casa. Già sono qua. Vai, mi senti, Marino? Dammi uno cappa. Marino, parla. Sì, già ti ascolto anch'io. Già ti ascolto. Il segnale non è molto lungo, Se sentivo meglio prima. No, Marino, non ti ascoltiamo, Marino. Io non ti ascolto. Lo segnale, ieri sera ti ho ascoltato. Stasera, nada de nada. Sì, ma chi? Non è il segnale, non è il suo, comunque. È più basso il segnale. Come nel radio sta uscendo bene, però di segnale è più basso. Ieri quando ho fatto le prove l'ascoltavo, che dice che aveva in mano l'antenna. Oggi no, nulla, zero, riporto zero. Attenzione, Giovanni Maria, se mi ascolti. Mia, sto chiamando tutti e due parlando insieme, per me è il 27. Tutti e due insieme, Giovanni. E vediamo se Marino è ritornato. Marino? Oh, ciao, il segnale è basso, ciao, Bacchi. Io già l'ascolto, però il segnale è basso. Ieri sera, lo sentivo a fondo scala, e arrivava una bomba, si arrivava sotto casa, e si dice che c'era l'antenna in mano. Oggi non lo so dove ce l'ha, sotto il letto. Oh, ciao, il segnale è basso, non è come era ieri. Ieri il segnale era forte, però oggi è basso. Ma l'ha fatto basso. Io, dimmi Marino, avanti. Marino. Ma mi sembra deciso a parlare. Marino. Sì, c'è sempre lo stesso il segnale. Non so se ti ascolta Bacchisio. C'è sempre lo stesso basso di segnale. Come radio ti ascolto io, però gli altri non ti ascoltano. Ma io non ascolto né il radio né il segnale, nulla. Zero riporto zero stasera. Sì, vabbè, dai. Domani te racconti, te la buone a pulso. No, non è aumentato, ti sei ancora più abbassato. Ah, va, sì, a tre tacchetti sei abbassato. Sempre più basso adesso sei diventato. No, adesso ti sei aumentato di una tacchetta. Però non di più. No, non ti ascolta Bacchisio. Ma lì, ha detto che non ti ascolta. Non ti ascolta, Mari, non ti ascoltano, sei troppo basso. Ma sei sceso da fare da due dacchetti sei varato. Sei di parecchio sei sceso. Ebbè, dormiti siete.